la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, qui in diretta dagli studi di Milano alle 16.36, 5 secondi. Oscar Giannino vi saluta, vi auguro un buon martedì 18 di marzo e vado subito al tema del giorno per consentirvi, se lo volete, di chiamare 800 24 00 24, di mandare messaggi, ripeto il numero 349 238 6666. Il tema del giorno è collegato a quello che è avvenuto questi giorni sulla scena internazionale con le vicende della Crimea, e però a mio giudizio non è affatto collegato alle vicende della Crimea, perché è un po' singolare, no? Per molti versi comprensibile che tanto spazio, tanta attenzione sia data al referendum farsa, quello davvero della Crimea che si è tenuto con le truppe russe, e che aveva come due interrogativi: volete voi unirvi con le truppe russe fuori seggi alla Russia, oppure secondo volete separarvi dall'Ucraina? E io trovo invece incomprensibile che in tutto questo la stragrande maggioranza, il 99% dei media italiani, non dedichi una riga, un minuto di trasmissione televisiva o radiofonica a una consultazione volontaria che è partita questa settimana e che durerà fino a venerdì, di cui avevamo già parlato in questi microfoni un mese fa, presentandola, spiegando la storia che la precedeva. Stiamo parlando della consultazione online che è organizzata da il comitato, il cui indirizzo sulla rete potete trovare a www.plebiscito.eu, ed è la consultazione online sull'indipendentismo, riservata ai cittadini veneti. Allora, non ne ha parlato nessuno, ma fatto sta che su 4 milioni scarsi, meno di 4 milioni di elettori del Veneto, in questi giorni, siamo a martedì, già oltre 700.000, secondo gli organizzatori, hanno votato, 200.000, un po' meno di 200.000 nei seggi fisici che sono indicati, se andate a trovare l'indirizzo www.plebiscito.eu, ma complessivamente molte centinaia di migliaia in più invece online, e sono circa 700.000 coloro, dicono gli organizzatori, che fino a questo momento hanno già esercitato le procedure per poter votare. Se andate a vedere sul sito troverete che vi si chiede di compilare una scheda anagrafica, di dare il numero di un documento di identità. Solo dopo aver fatto questo riceverete un codice personale per accedere al voto, e avrete quattro interrogativi. Sto parlando naturalmente a chi sta in Veneto e vuole eventualmente aderire o rispondere a questi quattro interrogativi. Il primo è: vuoi tu che il Veneto diventi una Repubblica Federale indipendente o sovrana? Sì o no? Quindi c'è l'alternativa, non come in Crimea. E poi ce ne sono altri tre: uno, se il Veneto debba rimanere, a giudizio di chi risponde, all'Unione Europea; se debba rimanere all'interno dell'euro; e se debba rimanere all'interno della NATO. Ora, a me ha colpito molto il silenzio dei media italiani, e stamattina ho fatto un balzo quando, leggendo il Corriere della Sera, trovate a pagina 11 del Corriere della Sera una notiziola che dice: il referendum farsa finisce sui media stranieri, e nel corpo della notizia si dice che questa iniziativa, priva di qualunque attendibilità di un gruppo venetista sul sito plebiscito.eu, ha attirato l'attenzione di tanti media stranieri, perché molti media stranieri ne hanno parlato, perché c'era la concomitanza della vicenda di Crimea. Dopodiché la conclusione è del Corriere: l'inverosimile notizia è poi rimbalzata anche sulla stampa anglosassone. Allora, io ho rispetto delle opinioni di tutti, e ho rispetto per esempio di un partito nato sulla rete e che decide con poche migliaia di persone che poi si esprimono in rete, come il Movimento 5 Stelle. Non me lo sentite dire per la prima volta che ho rispetto per molte delle cose che fanno, e comunque li rispetto a prescindere. Mi pare paradossale che in Italia, su un tema, nella regione, una di quelle regioni insieme alla Sardegna e altre, in cui l'indipendentismo ha una storia lunga e che ha un radicamento, in occasione di una consultazione libera che si svolge in questa forma con centinaia di migliaia di cittadini che vedremo poi le risposte, aderiscono. Non ho detto che la si debba prendere come se fosse una consultazione ufficiale, come ovvio no, ma che si debba dire che è una farsa quando bisogna cambiare il titolo quinto, abbiamo parlato per 20 anni di federalismo, non abbiamo visto niente, la spesa locale è salita e il riequilibrio dell'autonomia finanziaria, delle autonomie non c'è stata, e passiamo 11 mesi ancora a ragionare dell'IMU con questi bei risultati che paghiamo poi tutti di più. A me pare sbagliato dal punto di vista dell'informazione. Sono interessato a capire, chiunque di voi, come la pensi se telefona. Non prendetela come una cosa nord contro sud, perché non c'entra niente. Io ho solo grande rispetto per chi da anni si batte perché i cittadini possano esprimersi su queste cose. Ecco, questa era la mia troppo lunga premessa, e ho invitato oggi per parlarne esattamente chi vi avevo già proposto perché facesse, vi spiegasse i precedenti di questa iniziativa, e cioè l'avvocato Alessio Morosin, che è il presidente onorario del movimento politico Indipendenza Veneta. Buon pomeriggio, avvocato Morosin. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Lei lo sa che una delle argomentazioni rilanciate a Corriere della Sera, questa è insomma una cosa che non ha alcuna base di serietà, ma figuriamoci, una manipolazione, come si fa a fidarsi di questa cosa? Cosa risponde il comitato che ha organizzato questa cosa, e lei comunque che è un indipendentista non da oggi ma da anni? Allora, intanto bisogna rispettare tutte le iniziative che in modo pacifico, con intelligenza, intuizione e anche fantasia, sanno ridestare l'interesse intorno ai grandi temi. La politica italiana è una commedia senza testo ormai, che ci ha portato dalla tragedia alla farsa. Come diceva lei, anch'io sono rimasto molto impressionato stamattina dell'articolo sul Corriere, il quale ha poco rispetto quantomeno delle iniziative che partono dal basso, dai cittadini, dalle persone che vogliono cambiare qualcosa. Indipendenza Veneta, che io ho l'onore di aver fondato e che spero di portare così a risultato come è nel suo nome, a dare quindi al Veneto l'indipendenza, è un movimento che ha dato gemmazione a varie iniziative, fortunatamente non più in contrasto tra di loro, diciamo agire separati per colpire uniti, questo è diventato lo slogan. Perché quindi, diciamolo, in questi 20 anni le formazioni politiche per accappiare i voti sì, in nome dell'autonomismo, dell'indipendentismo, in Veneto come altrove in Italia, si sono legnate tra loro, ed era una questione che alla fine secondo me ha molto allontanato anche l'elettorato, penso alla parabola della Lega, perché capiva certo che prevaleva la parte politica e la strumentalizzazione politica rispetto a quello che si otteneva davvero. Ma guardi, dottor Giannino, la questione della Lega... Giannino e basta. Chiedo scusa, la questione della Lega è una questione un po' particolare, perché anche oggi avvertiamo tutti che è più strumentale che vissuta come progetto quella di cavalcare l'idea dell'indipendenza in Veneto. Io ho parlato del cuculo che deposita le uova nel nido altrui, ma non importa, abbiamo detto, noi coviamo anche l'ovo della Lega purché sia fecondo di indipendentismo, purché ci porti in avanti nel dibattito, purché desti le coscienze. Quindi ogni iniziativa è ben vista, ovviamente, e non amiamo chi disprezza iniziative, ripeto, che sono di democrazia, che sono di dialogo, che sono di confronto, che sono anche di fantasiosa innovazione. Poi la realtà dell'indipendenza non è un fatto fantasioso, perché è un progetto serio, è un progetto che è bene ribadire non è anti-italiano, come non è anticostituzionale, è un qualcosa di nuovo che molti, di cui molti ne parlano senza averne la minima conoscenza, e questa è la cosa che più mi disturba. Allora, la fermo solo un secondo, perché a proposito di anticostituzionale, ovviamente lei sa meglio di me, ha scritto su questo eccetera eccetera, l'articolo 5 della Costituzione viene invocato come invece una barriera pressoché insormontabile. Ricordo a tutti che si vota in Catalogna, si voterà per il referendum indipendentista in Catalogna. Con maggioranza e opposizione della Generalitat che chiede il referendum, anche se Madrid dice anche in quel caso che è contro la Costituzione, loro lo faranno comunque. E a settembre, in autunno di quest'anno, si vota in Scozia per il referendum sull'indipendenza, e lì c'è un dibattito rovente che va avanti da mesi, proprio se restare o meno con la sterlina, se aderire all'euro, di qua di là, ma è diventato il dibattito leader pubblico nel Regno Unito. Aspetti, per la costituzionalità o meno, noi abbiamo un sindaco anche collegato, Cristina Andretta, che è sindaco di Vedelago, quindi in provincia di Treviso. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Ecco, lei è indipendentista, adesso noi abbiamo 60 secondi di traffico, ma glielo chiedo, non c'è il traffico oggi, mi dicono, abbiamo sospeso, si salta o sono in ritardo? Ah no, non c'è proprio, benissimo, grazie alla regia che mi hanno avvisato. E volevo chiederle, lei che è un sindaco, quindi ha, insomma, per lei le leggi, la Costituzione devono rappresentare un punto di riferimento inviolabile, perché dal suo punto di vista il fatto di essere indipendentista e sindaco di Vedelago non sono in contraddizione con l'articolo 5 della Costituzione? Ma guardi, innanzitutto noi il rispetto delle istituzioni ce l'abbiamo perché ci stiamo lavorando e per cui su questo sicuramente il rispetto lo abbiamo. Poi cosa vuole che le dica? Il sindaco è sicuramente il politico più vicino a tutti i cittadini, per cui io quando incontro per strada i miei cittadini mi fanno delle domande. A questo punto io, se avessi la possibilità di amministrare indipendentemente, quindi con, diciamo, la massima indipendenza, potrei probabilmente rispondere in maniera diretta ai miei cittadini senza chiedere magari alla provincia, alla regione, fino ad arrivare allo Stato, e quindi a questo punto le immagini quanto tempo ci metto per dare una risposta al cittadino. Ecco, questo lei quando ha chiesto i voti ai cittadini di Vedelago non ha mascherato la sua convinzione indipendentista, gliel'ha chiesto, i cittadini sapevano che votando lei esprimevano anche un'opinione precisa in questa direzione? Guardi, sotto la mia immagine c'era un simbolo di indipendenza veneta e altri quattro simboli di altre quattro liste civiche, quindi sapevano benissimo, ma la mia coalizione andava esattamente da destra a sinistra perché avevo anche, diciamo, rappresentanti del centro-sinistra, ma tutti abbiamo approvato sicuramente questo strumento, quindi è lodevole, diciamo, l'iniziativa dell'indipendenza veneta, perché per arrivare all'obiettivo sicuramente si utilizza lo strumento più democratico che esiste, cioè la consultazione libera popolare. Avvocato Morosin, invece, qual è la sua risposta a chi dice che la Costituzione su questo non consente di immaginare secessioni e indipendenze? Allora, prima di parlare dell'articolo 10, che in qualche modo dà una risposta soddisfacente, parlo della Costituzione ovviamente, vorrei soffermarmi sull'articolo 5. L'articolo 5, che dice che l'Italia è una indivisibile, è una norma rigida e, come tutte le norme rigide, è smentita innanzitutto dalla storia e poi è pericolosa perché l'ha scritta. Due esempi a flash. Nel 1848, quando Carlo Alberto presentò come una cosa innovativa il suo statuto, Statuto Albertino, disse in un tripudio di applausi: questa è una legge perpetua e irrevocabile. Io chiedo a lei e agli ascoltatori, oggi abbiamo lo Statuto Albertino? No. Io non solo le rispondo no, ma sono dell'idea che le costituzioni più belle del mondo ed eterne sono una contraddizione ad iecto, come si dice. Esattamente, è quello che diceva Thomas Jefferson, se mi consente. Esattamente. Una cosa più recente, più attuale, interessantissima, a chi si prodiga a difendere questa teoria senza guardare la realtà. Nel 1975 l'Italia ha firmato un trattato ad Osimo, infatti si chiama Trattato di Osimo, col quale ha ceduto una parte del territorio e della popolazione, quella della parte B di Trieste, a uno Stato estero, violando palesemente l'articolo 5 della Costituzione. Qualcuno, mi chiedo io, in nome della libertà, della democrazia, del coraggio di confrontarsi, cosa ne dice di questo argomento, o lo hanno già archiviato perché quello dà fastidio? Insomma, sia nel passato di ieri, sia nel passato recente, abbiamo testimonianze per dire che l'articolo 5 non è un ostacolo, che la storia lo ha smentito, storia di ieri e di oggi, e che comunque io credo, dottor Giannino, alla nozione procedurale di democrazia, come si suol dire, ovvero a che le leggi si possono anche in qualche modo costruire nel rispetto della volontà dei cittadini, adeguando la stessa norma di creazione delle leggi a quelle che sono le esigenze del cittadino. Quindi questa iniziativa referendaria, quella ufficiale in regione, quella di sondaggio, di verifica per via digitale, sono dei valori aggiunti a chi ha a cuore l'interesse del cittadino. Chi la pensa diversamente dubito che metta al primo posto l'interesse dei cittadini, del popolo. Comunque inteso, io ovviamente curo e ho ambizione di dare un futuro non solo di PIL adeguato, ma anche di FIL, di felicità interna lorda, come negli stati più avanzati. Pensi che il Bhutan misura il benessere dei suoi cittadini col PIL, appunto. Però noi siamo un paese manifatturiero, non siamo il Bhutan, su questo la devo fermare, perché non sono d'accordo. Aspetti un secondo perché devo un po' di Prego. Risposte ai tantissimi ascoltatori che stanno smitragliando gli sms, poi avremo anche delle telefonate. Per esempio, uno dice: perché Catalogna, Scozia, Kosovo sì, Crimea no? La mia risposta è molto semplice: Catalogna e Scozia sono due consultazioni che vengono regolarmente, nel caso caso della Scozia è tutto in regola con l'ordinamento, nel caso della Catalogna ho ricordato l'obiezione del governo centrale, ma sono libere e democratiche, volute da una trasversalità enorme di forze politiche, non si svolgono come in Crimea con un esercito occupante fuori i seggi, avete capito? C'è una differenza fondamentale. Nel Kosovo, chi argomenta che il precedente del Kosovo fonda la ragione della Russia che è intervenuta militarmente e si annette adesso la Crimea, dimentica che nel Kosovo interveniva, è intervenuta la formazione dell'autonomia dopo anni di pulizia etnica, ecco, quindi in quel caso c'era un problemino con la Serbia, in Crimea non c'era un problema di questo tipo, in Catalogna e Scozia tanto meno, quindi tentiamo di distinguere. Se io vedessi la consultazione avvenire in Veneto, sia questa che libera online dal basso, sia un domani qualunque tipo di referendum consultivo o deliberativo in Italia con le forze armate fuori seggi, non mi piacerebbe per definizione, ma questa è la distinzione che bisogna avere netta, qui è una libera iniziativa dal basso, rispetto alla quale secondo me semplicemente dire il problema non esiste è una farsa e male fanno i giornali a parlarne, è completamente sbagliato. Altri ci informano di avere analoghe intenzioni rispetto a quelle venete anche in Lombardia, eccetera eccetera, c'è chi dice se però da Veneto che se dovesse mai esserci una decisione di questo tipo se ne andrebbe dal Veneto, c'è chi chiede come nato in Veneto ma residente altrove se può votare, io a questa domanda non so cosa dire, direi di no, però chiedo a Morosini, chi è veneto da altre regioni può votare in questa consultazione? Allora, la scelta che si è fatta anche nella presentazione del progetto 342 è quella di far votare chi ha diritto di votare in Veneto, esatto. Attualmente secondo l'attuale normativa. Questo è un criterio, una scelta legalitaria. Legalitaria di chiarezza, di semplicità. Questo è il punto e non si può venire a meno da questo principio. Il problema è che c'è qualcuno qui che ostacola l'informazione, che non fa arrivare l'informazione corretta ai cittadini. I cittadini si stanno impossessando di quello che è un loro spazio di libertà. Innanzitutto ritrovandosi, per esempio stasera io sono a un dibattito pubblico a 90 Padovana, dove verrà la TV russa, si è prenotata di venire perché è curiosa di vedere anche... Lei lo sa che però loro lo utilizzano per un altro scopo, però detto questo non ha importanza perché se ne parli, anch'io sono dell'idea, esatto, che questo deve essere il principio della libera informazione. Sentiamo qualche rapido ascoltatore, Mauro da Varese, prego Mauro. Buonasera Giannino, chiamerò dottore. No, appunto, grazie, prego. Senta, noi siamo un gruppo nato l'anno scorso a Varese, Nord Democratici, stiamo strutturando, proprio nella legalità che la Costituzione prevede, una consultazione che possa portare ad una nozione analoga a quella che ha proposto l'ospite veneto, cercando appunto un'autonomia ma soprattutto fiscale. Ecco, noi rispettiamo la Costituzione, ci collochiamo alla Costituzione italiana, ma sicuramente sta cercando di portare appunto la Lombardia ad un'autonomia fiscale che oggi non ha. Che oggi non ha, e io questo anche lo capisco, perché noi non abbiamo avuto né il riequilibrio né l'autonomia finanziaria per i comuni e per le regioni, e questo è completamente sbagliato, perché il tavolo è sempre continuamente aperto in una trattativa politica tra quanto poi lo Stato taglia, quanto chiede alle autonomie di continuare a fare, quanto poi le lascia libere di dire ma alzatele voi le addizionali locali, così vi beccate voi i fischi della gente, eccetera eccetera eccetera, piuttosto che scelte chiare su pilastri di autonomia finanziaria rispetto a concorrenze precise e non concorrenti, come nel titolo quinto confusissimo della nostra Costituzione. Sentiamo ancora rapidamente Mauro da Padova, prego Mauro. Buongiorno. Buongiorno. Io ho votato oggi pomeriggio per il referendum, il plebiscito, e sono stato sorpreso perché effettivamente ho visto nel sito che parlano di 700.000 persone che hanno già votato. Io le posso dire che c'è stato come un tantam che si è diffuso nel mio ambiente di lavoro, abbiamo votato quasi tutti e siamo una quarantina di persone. Lei da esterno che si è avvicinato solo sapendolo, che tipo, le procedure sono come sono descritte, cioè sono veramente serie o no? È serio secondo me, perché addirittura io ho ricevuto una lettera a casa con un codice che veniva, diciamo, grattato via come un gratta e vinci. Ho messo il codice, ho messo il numero della mia carta d'identità, ho votato oggi pomeriggio. Io invito tutti i veneti ad andare a votare, perché è una cosa seria, e penso che deve pensare che qui in Veneto ormai la Lega è finita, no? questa è una sua opinione, ma credo anch'io che sia in forte crisi, ma questo è un parabola ventennale, adesso se ci fosse Salvini ci picchierebbe, siccome è in assenza non voglio criticare, però io sono abbastanza convinto di quello che dice anche lei, quindi ci deve essere una trasversalità se i numeri sono davvero così elevati. Però mi scusi avvocato Morosini, ma chi è che poi garantisce dello spoglio? Ma io su questo punto credo che bisognerà fare delle verifiche, non sono uno del comitato e quindi non posso darle alcuna risposta concreta, se non quella che hanno predisposto uno strumento che mi si dice è passibile di verifica, di controlli. Quindi, perché questo è fondamentale, perché lei capirà che all'indomani il dire non ci crediamo sarà fondamentale, quindi io mi impegno a chiedere, a dirlo anche nei prossimi giorni, prima che finisca venerdì pomeriggio alle 18 la consultazione, di dire qual è il sistema di spoglio. Posso fare un'ultima domanda al sindaco Andretta? Lei quando è diventata indipendentista? Ma guardi, noi abbiamo fatto questa corsa elettorale l'anno scorso e abbiamo fatto la squadra a marzo. Eravamo più di 80 candidati appunto per le elezioni comunali di Vedelago nel 2013 e da lì abbiamo fatto un percorso. Le posso solo dire che la lista Indipendenza Veneta nel mio caso è arrivata prima prendendo la più alta percentuale di voti proprio alle elezioni amministrative. Ma no, ma io intendevo dire, lei è diventata di fronte alle delusioni della Repubblica Italiana in questi anni, lo è sempre stata, è una scelta culturale, che cos'è nel suo caso personale? Guardi, è semplicemente una riflessione di una realtà che prendiamo atto, le dico semplicemente, le parlo con i numeri, 70 miliardi di euro di tasse versa il Veneto, 50 miliardi di euro tornano come servizi e 20 restano a Roma. Ecco, e questi 20 miliardi, lei lo sa che anche la Lombardia ha un residuo fiscale altissimo ed è esattamente su questo che non si è visto il federalismo intervenire. Comunque, io volevo semplicemente sanare un buco dell'informazione, qualunque cosa voi ne pensate in ascolto, veneti, votate comunque, perché è un bene avere la possibilità di parlare e decidere. Continuate con Radio 24, appuntamento con me a domani.